falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi la nostra puntata è dedicata non a una, ma a due donne. Due donne che intrecciano le loro esistenze in maniera totale, perché diventano famosissime in tutto il mondo. Però sono molto diverse tra loro, perché solo una di loro è una donna in carne e ossa. L'altra è una bambola, ma non una bambola qualsiasi. La bambola per eccellenza, quella più venduta al mondo. La donna è Ruth Handler e la bambola è la sua grandiosa invenzione, la Barbie. La Barbie la conosciamo tutti, fa parte delle nostre esistenze, sappiamo tutto di lei, vita, morte e miracoli, o meglio, crediamo di sapere tutto, in realtà non è così, perché non si sa bene quello che sta dietro al suo successo, che è un successo immenso. Pensate, si stima che da quando è entrata in commercio nel 1959 ne sono state vendute oltre 1 miliardo di esemplari. Un successo così planetario, 3 bambole al secondo, dicono, è sempre il risultato di un mix di creatività e di capacità imprenditoriale, di fiuto e naturalmente anche di fortuna, ma nel caso di Ruth Handler anche di tenacia. Ma andiamo con ordine, vediamo di conoscerla questa Ruth Handler. È una delle imprenditrici di maggior successo del mondo, però è anche una grande inventrice. Nasce 10ª figlia di una famiglia di immigrati ebrei polacchi negli Stati Uniti, i Moskowitz. Suo padre, Jacob, ha lasciato la Polonia per evitare il servizio militare nell'esercito russo, perché siamo ai tempi del dominio russo sulla Polonia. Quindi lui scappa negli Stati Uniti e fa il fabbro. E nel 1916 a Denver nasce questa bambina, Ruth. Appena nata, la madre si ammala, lei viene allevata da una sorella maggiore, Sara, che è sposata e gestisce un negozio di drogheria. A lei piace molto stare in negozio, preferisce lavorare piuttosto che andare a scuola. Dimostra fin da piccola la sua predisposizione per gli affari e a 16 anni fa un incontro molto importante per lei. Si reca a una festa dell'organizzazione ebraica B'nai B'rit. B'nai B'rit è una loggia ebraica con scopi umanitari. In realtà ci sono delle feste di beneficenza che servono soprattutto per trovare i fidanzati alle ragazze. Siamo nel 1932 e a quei tempi si fa così. Ed è anche quello che succede a Ruth. Incontra un suo coetaneo, Isidor Elliot Handler, detto Izzy. I due si innamorano subito, è un colpo di fulmine. Ruth in quel momento non lo può ancora sapere, ma resterà con quel ragazzo per 70 anni. I due giovani finiscono le scuole dell'obbligo, poi vanno a Los Angeles, dove Ruth va a lavorare come segretaria per la Paramount Studios, mentre Izzy si iscrive all'Art Center School of Design. Dopo 3 anni, nel 1938, si sposano. Iniziano a lavorare assieme e gli studi di Izzy gli suggeriscono una strada molto interessante: disegnare mobili e accessori con nuovi materiali dell'epoca, la lucite e il plexiglass. Gli affari vanno abbastanza bene, ma decollano quando Ruth riesce a strappare un contratto alla Douglas Airways. Produrranno una linea di modellini di aeroplani da regalare a Natale ai viaggiatori. Uno scherzetto che vale per loro, ai tempi, un guadagno di 2 milioni di dollari. Young boy that I know feels he has lived too long. His spirit of adventure slipped away. A questo punto Ruth Roth e Izzy decidono di costituire una società della quale entra a far parte anche un loro amico, Harold Matt Mattson. La chiamano Mattel dalle parti iniziali dei nomi Matt e Elliot. Beh, all'inizio producono cornici per fotografie, ma Izzy adora disegnare mobili, gli viene in mente di costruire mobili in miniatura per arredare le case delle bambole. La Mattel entra così nel mondo dei giocattoli, è proprio il caso di dirlo, dalla porta principale. Ruth è molto creativa, i giocattoli la ispirano, è diventata anche mamma, prima di una bambina, Barbara, e poi di un maschietto, Kenneth. Attenzione a questi due nomi. Pensando ai suoi bambini, ha delle buone idee, come per esempio un Yuke Doodle, un ukulele giocattolo, o una divertente music box. Ma soprattutto Ruth è una donna d'affari e ha anche molto coraggio. Anche se a fatica, riesce a convincere il marito e il socio a investire in pubblicità, ma non una piccola cifra. Nel 55 la Mattel spende $500,000, tutto il suo valore, in un commercial da inserire nel Mickey Mouse Club, un nuovo programma per bambini. Hey kids, more fun than a circus. The new Mattel musical toys. Here's Matty Mattel and the Mattel Jack in the Music Box. È una trovata rivoluzionaria. Nel Mickey Mouse Club le pubblicità parlano ai bambini, non agli adulti. I ragazzi diventano per la prima volta dei consumatori a tutti gli effetti. Fanno dei danni incalcolabili che tutti noi genitori conosciamo bene tutte le volte che i nostri figli guardano dei programmi per bambini. Va detto che il mondo sta cambiando in quegli anni. Fino a quel momento i giocattoli li si comprava solo a Natale. Adesso i bambini iniziano a chiederli anche in altre occasioni e le industrie in questo comparto crescono sempre più. La Mattel, con la pubblicità in televisione, fa un boom incredibile di vendite. Ruth ha vinto la scommessa con i suoi soci, che all'inizio erano titubanti. L'azienda inizia a produrre giocattoli di varie tipologie, tra cui molti bambolotti. Gli affari vanno bene, ma come vanno bene quelli di tanti altri loro concorrenti? Izzy, Elliot e Matt sono soddisfatti, ma non Ruth, perché continua a dire al marito che ci deve essere qualcosa in grado di rivoluzionare veramente il mondo dei giocattoli per i bambini, qualcosa che non sia mai stato fatto fino a quel momento. Ma cosa? Ruth continua a riflettere. Ha avuto un'idea brillante quando ha deciso di mostrare i propri giocattoli in televisione ai bambini. È stata una mossa astuta, una ottima operazione di marketing, perché con quello spot ha scatenato in loro il desiderio di possedere quel giocattolo. In fondo sono loro i bambini che hanno decretato il successo della Mattel, e Ruth si convince che devono essere ancora loro i bambini a darle l'idea del super giocattolo, quello che tutti vorranno, che tutti compreranno. E lei è fortunata, di bambini in casa ne ha due, i suoi figli, che hanno parecchi amici, che vengono a giocare lì da loro, quindi basterà osservare i suoi figli e i loro amici mentre giocano per farsi suggerire l'idea vincente. Il suo intuito ancora una volta si dimostrerà eccellente. È proprio guardando la figlia Barbara giocare che Ruth Handler rivoluzionerà il mondo del giocattolo e creerà qualcosa che ormai fa parte delle nostre vite. Il falco e il gabbiano. Ruth Handler, che al pallino degli affari, sta avvicinandosi sempre più al giocattolo perfetto, quello che tutto il mercato è pronto a ricevere e quello che tutti i bambini desidereranno possedere. Sono mesi che ci pensa, è convinta che l'idea possa arrivare proprio da loro, i bambini, che sono i diretti chiamati in causa, i fruitori, e che come tali possono darle delle indicazioni corrette. Oggi si direbbe un'indagine di mercato. Lei ha un'arma perfetta, si chiama Barbara ed è sua figlia. E lei stessa a raccontarci com'è andata. Avevo osservato per ore mia figlia Barbara che giocava con le amiche sul pavimento. Giocavano con delle bambole di carta, ritagliate, che rappresentavano delle donne adulte. Provai a convincere Elliot a realizzarle tridimensionali, ma mi disse che era impossibile. Dunque, Ruth Handler osserva sua figlia Barbara, che ormai è quasi una teenager, e capisce che il suo modo di giocare con le bambole è molto cambiato. Ha messo da parte i bambolotti che ricordano i neonati, mette in scena delle vere e proprie situazioni di vita vissuta, dove le protagoniste sono delle ragazze. Ritaglia dai giornali di moda le figure femminili, per poi vestire le protagoniste delle sue scenette a seconda di quello che stanno facendo. Ruth ha un'illuminazione: il mondo delle bambole deve cambiare. Basta con la vecchia concezione che giocare alle bambole sia il preludio alla maternità. Basta con il pensiero che le bambine inscenino le prove generali di loro stesse quando diventeranno mamme. La bambola diventa una proiezione di come saranno loro da grandi nel futuro, possibilmente un futuro roseo, fatto di bellezza e di eleganza. Ruth ascolta la figlia mentre descrive la giornata della sua bambola adulta. Va a fare shopping, va a cavallo, va a cena con gli amici, va a una festa. E in ogni situazione è pienamente a suo agio, è vestita come richiede l'occasione, perfettamente inserita nel suo contesto sociale. E beh, Ruth è decisa, ne parla subito col marito. Lui non vede questa eccezionalità nell'idea che ha avuto la moglie. E dello stesso parere anche Matt. Non si è mai vista una bambola con le fattezze di un'adulta. Perché mai le bambine dovrebbero interessarsi alle cose che fanno le donne grandi? A loro interessa giocare. È lo stesso marito di Ruth, Izzy Elliot, che anni più avanti racconta di come non avesse colto subito la fantastica idea della moglie. Mi parlò della sua idea, ma a me non sembrava una buona cosa, perché avevamo già avviato la produzione di una linea di bambole che rappresentavano delle ragazzine. Sì, erano ragazzine sui 12 anni e avevano anche dei vestitini, ma non è che avessero avuto tutto questo successo. Così le dissi: perché dovremmo produrre un'altra bambola se quelle che abbiamo non vendono bene, non sono piaciute? Ruth Handler ha tutti i soci contro. Nessuno trova interessante la sua idea, eppure lei è assolutamente sicura di quello che dice. Decide di aspettare un momento più favorevole. Il momento arriva nell'estate del 56, quando si trova con tutta la famiglia in vacanza in Germania. Lei continua a pensare alla sua idea, guarda con attenzione le vetrine dei negozi di giocattoli. Un giorno il suo sguardo viene attirato da una bambola che lì in Germania ha un certo successo. Si chiama Build Lily Doll. È alta circa 29 centimetri, rappresenta una ragazza sulla ventina, ha le gambe lunghe, la vita stretta, è formosa, truccata e pettinata con la coda di cavallo ed è venduta con diversi tipi di vestiti. Build Lily Doll è in realtà la derivazione di un fumetto piuttosto famoso in Germania, rivolto agli adulti. È apparsa per la prima volta sul giornale Bild Zeitung il 24 giugno 1952 ed è anche un peperino di ragazza, si mantiene facendo la segretaria e non ha peli sulla lingua. Non teme l'opinione degli altri ed è un anticonformista. È proprio il tipo di personaggio che piace a Ruth. È diversa da tutte le bambole che si vendono in America. Allora lei ne acquista tre modelli con caratteristiche differenti, li porta a casa a Los Angeles e se li studia bene. Il suo incontro con Lily le dà le energie necessarie. Questa volta nessuno la può più fermare. La bambola che Ruth ha in mente da tempo è molto simile a Lily. È un'immagine moderna con i tratti del volto ben definiti, è formosa e rappresenta il canone di bellezza a cui qualsiasi donna tende. Finalmente i suoi soci, convinti soprattutto dalla sua determinazione, decidono di avviare una produzione della nuova bambola. I diritti della Bill Lily Doll vengono acquistati, come anche il brevetto. E poi Ruth, aiutata dall'ingegnere Jack Ryan, inizia a immaginarsi la prima bambola adulta americana. E naturalmente la prima cosa è la scelta del suo nome. Quando disegniamo la bambola, io capii che dovevo chiamarla con il nome di mia figlia, che era colei che aveva ispirato l'intero progetto. Per questo la chiamammo Barbie. So we named the doll Barbie. And a very neat line in character assassination. She's just a shabby doll. Barbie incomincia a prendere forma, non solo nella mente di Ruth, ma anche in quella di tutti coloro che collaborano con lei. Deve avere una figura esagerata, da pin-up, la vita strettissima, le gambe super lunghe e affusolate, gli occhi grandi e il nasino all'insù. E poi, cosa fondamentale, viene disegnata per stare sui tacchi. Ma se ora Barbie ha un nome, un volto, delle fattezze, se insomma ha preso forma, ora va prodotta. E la cosa non è semplice. Le difficoltà inerenti allo stampo seriale del vinile vengono acuite dalla delicatezza delle forme di Barbie, che ha il vitino, le caviglie strette, le mani affusolate. Solo in Giappone esistono industrie specializzate nel trattamento di questi materiali, che garantiscono un alto livello qualitativo a prezzi accettabili. Ci vogliono molti mesi, parecchi viaggi, ma alla fine la Barbie è pronta, come racconta l'inventrice. Ci vollero ben 3 anni per riuscire a produrre la bambola, e il 1959 fu il grande anno in cui mettemmo sul mercato questo prodotto. Quindi la prima Barbie della Mattel è del segno dei pesci, perché debutta ufficialmente il 9 marzo del 1959 in occasione della Fiera del Giocattolo di New York. È presentato come teenage fashion model, è chiusa in una bella scatola di cartone bianco con il coperchio illustrato da disegni che raffigurano alcuni abiti della collezione. È vestita con un costume intero zebrato, bianco e nero, è sia bruna che bionda ed è acconciata con una magnifica coda di cavallo. Ha perfino un delizioso paio di occhiali da sole con la montatura bianca che porta delicatamente appoggiati sulla testa, segno distintivo di un glamour che lei sfoggia con sicurezza. Il suo portamento è superlativo, sembra proprio quello di una mannequin, di una indossatrice di alta classe. Alla Fiera del Giocattolo di New York non vi è nulla di simile alla Barbie, è sicuramente l'unica bambola adulta, la sola con quelle forme quasi scandalose, con quei vestiti osè, l'unica bambola che ha un sottile rimando alla sensualità. Ruth Handler è convinta e soddisfatta del suo nuovo giocattolo, che esce decisamente dai confini delle normali produzioni tradizionali e che si fa notare per la sua particolarità. Eppure riceve una delusione cocente, i compratori sono tiepidi, non se ne entusiasmano affatto. Ha un aspetto troppo adulto quella bambola, a chi potrà mai piacere? Non alle bambine piccole, che sicuramente non si interessano ancora né di moda né di vestiti né di acconciature o trucchi, non alle ragazze più grandi, che non giocano più con le bambole. La fascia di età a cui può piacere una bambola del genere è estremamente ridotta. La Barbie sarà sicuramente un flop. Beh, la storia ci racconta un epilogo molto diverso e tra poco scopriremo cosa accade alla nostra mitica Barbie. Oggi vi stiamo raccontando il retroscena di uno dei successi più grandi nella storia del giocattolo, ma non solo, perché è un successo della creatività, dell'inventiva e della capacità imprenditoriale di una donna, ma anche un grande cambiamento nei concetti di bambola e di giocattolo, perché la storia è quella della Barbie, che è una bambola assolutamente particolare e allora molto rivoluzionaria, la più famosa e più venduta bambola al mondo. La sua inventrice Ruth Handler, socia insieme al marito e al loro socio Matt Madson della Mattel, ha questa brillante intuizione. Realizza una bambola adulta che si contrapponga ai bambolotti dell'epoca e che impersoni con il suo glamour e la sua bellezza le aspirazioni delle bambine e delle ragazzine soprattutto di tutto il mondo. È una grande rivoluzione non solo nel mercato del giocattolo ma anche in ambito sociale, perché è la prima volta che una bambola presenta fattezze di una giovane donna adulta, formosa, sensuale, pronta a affrontare la vita moderna con un look decisamente sexy, diciamo che un po' disinibita sessualmente. Un padre non sarebbe felice di vedere la figlia uscire a 13 anni vestita come la Barbie, perché questo è il nome, Barbie, dal nome della figlia degli Handler, e viene prodotta in Giappone e presentata per la prima volta in anteprima mondiale al Salone del Giocattolo di New York il 9 marzo 1959. Le aspettative di Ruth e dei suoi soci sono molto alte, ma intanto i compratori inizialmente riservano alla Barbie un'accoglienza tiepida. È troppo femmina, viene ritenuta poco adatta alle bambine. Si pensa che non avrà successo. We were very, very disappointed initially. Fummo molto delusi, dispiaciuti inizialmente, alla fiera del giocattolo. Half of our customers didn't want to buy anything. I rappresentanti non volevano comprare. Io dissi a Ruth, te lo avevo detto, no? Ma appena le bambole arrivarono sugli scaffali, io ero nel torto e lei aveva ragione. I was wrong, she was right. Diciamo che, come spesso accade, non vincono il premio della critica, ma vincono il festival, ma alla grande, perché alla fiera di New York i rappresentanti si dimostrano delusi, ma la reazione della gente è esattamente l'opposta. Le giovani acquirenti impazziscono per la Barbie, che piace anche alle loro mamme. È bella, fashion, non può non piacere. E Ruth ci ha visto giusto. La prima richiesta nelle letterine di Natale del 1960 è la Barbie doll. Solo in quel primo anno la Mattel ne vende 350.000 a $3 l'una, fate i conti. Le madri e le figlie comprarono quelle bambole in maniera così rapida che furono i consumatori stessi che crearono il caso Barbie e ne fecero un successo istantaneo. Mi emoziona molto negli aeroporti o in qualsiasi luogo dove si trovano riunite delle persone vedere le bambine giocare con la Barbie. È qualcosa che mi colpisce molto. Sono anche stupita dal fatto che questa bambola abbia avuto un'influenza così grande sulle persone, ma è indubbio che sia stato così. And yet I know that we did. Eh sì, Ruth parla di influenza e non ha torto, perché Barbie è sicuramente catalogabile come un fenomeno sociale di massa. Per la prima volta nella storia un giocattolo ha alle spalle una strategia di mercato basata su una massiccia comunicazione pubblicitaria, anche televisiva. È qualcosa di assolutamente innovativo per l'epoca, ma che da quel momento influenza la comunicazione di tutto il settore. Il primo spot prodotto per la Barbie mostra la bambola, vestita con diversi abiti e altri accessori, presentati in maniera accattivante. Ma la cosa che più colpisce è l'audio. Barbie, un giorno io sarò come te. Fino a quel momento so cosa fare. Barbie, bellissima Barbie, farò credere che io sono te. Ecco la genialità. Così recitano le parole del jingle. Cioè, in quelle parole è racchiuso il preciso piano strategico commerciale rivolto alle bambine: trasformare la Barbie nella proiezione di se stesse da adulte. Dei geni del male, perché in quella bambola le giovani consumatrici possono scorgere il proprio futuro, ed è un futuro bellissimo, fatto di fascino, eleganza, bellezza. Big time. Barbie ormai è un personaggio famoso. Ruth Handler decide di accrescerne il mito, trasformandola in una vera e propria persona a tutti gli effetti. E non è solo una bambola bellissima con una quantità impressionante di vestiti, accessori che le bambine possono acquistare separatamente andando a incrementare i guadagni della Mattel. È un personaggio con una propria storia, una propria famiglia e una sua vita. E così, per incominciare, le dà un nome vero: Barbara Millicent Roberts. E Barbie ha due genitori, George e Margaret, e molti fratelli e sorelle, Skipper e i gemelli Tutti e Todd, Stacy, Shelley, la piccola Chrissy. È un incredibile numero di familiari che costituiscono un nuovo sistema di personaggi e di accessori da vendere alle bambine, ma anche ai collezionisti. Ma soprattutto Barbie si fidanza. Il suo innamorato si chiama Ken Carson. Anche in questo caso, come per Barbie, Ruth dà al bambolotto il nome del figlio Kenneth, detto Ken. Anche di lui, dell'immaginario fidanzato di Barbie, ideato per i bambini maschi, esistono versioni differenti e varie linee di abbigliamento a lui dedicate. poi Barbie ha una migliore amica, Midge, sposata con Alan, ma anche molti amici di etnie differenti. L'ispanoamericana Teresa, gli afroamericani Christy e Steven, che sono fidanzati tra di loro, e Kayla, una ragazza giapponese. Barbie ha frequentato la Willows High School nel Wisconsin e la Manhattan International High School a New York. Il piano è diabolico perché negli anni accumula uno zoo, ha oltre 40 animali e ci sono cani, gatti, cavalli, un panda, tutti accessori venduti a parte. E poi guida una decapotabile rosa, una corvetta, un camper e molti altri veicoli. È una catena senza fine perché ha la patente di volo per aerei commerciali, è stata anche hostess, ma non solo. La sua carriera viene studiata a tavolino per mostrare alle ragazzine in quante diverse professioni possa eccellere una donna, e per vendere altrettante versioni della bambola. È impossibile elencarle tutte: dottoressa, ufficiale, poliziotta, architetto, astronauta, pilota, ballerina, chef, una lista infinita nella quale non manca nemmeno la carica di maggior prestigio in una nazione. In questo momento particolarmente contestato della politica, è bello sapere che c'è un candidato che può piacere praticamente a tutti. Barbie concorre per diventare presidente. Questa bellissima bambola della linea Io Posso Essere indossa un tailleur molto tradizionale creato dal designer Chris Benn ed appare elegantissima per la sua campagna elettorale. Barbie, presidente degli United States of America. Ecco fin dove sono arrivate l'intuizione e l'abilità di Ruth Handler. Il 12 agosto 2004 Barbie annuncia la sua campagna elettorale per diventare presidente degli Stati Uniti, rappresentando il Partito delle Ragazze, con un vero e proprio programma elettorale stilato da Mattel. Naturalmente, come tutti i personaggi pubblici, che siano in carne e ossa oppure in vinile, i detrattori non mancano e sono parecchi. La Mattel viene accusata di contribuire alla deforestazione dell'Amazzonia e viene anche prodotto un video virale nel quale Ken, sconvolto da questa notizia, lascia la fidanzata. Allora Ken, ti trovo in splendida forma. Ehi, perché non dovrei esserlo? Ho tutto! Sono figo, abiti firmati e ho una casa da sogno! Oh, e poi c'è Barbie e sta per uscire un mio nuovo film. Sono un vincente! Non hai sentito le ultime novità su Barbie? L'hanno di nuovo beccata a Santa Monica che si faceva il bagno nuda? No Ken, ha fatto molto di peggio. Si è messa ancora il suo baby doll rosa con piume di struzzo! Dove pensi che fosse Barbie lo scorso weekend? In qualche foresta pluviale a spararsi delle pose? In che senso sparare, Ken? Non so, doveva posare per un servizio. Guarda qua, Ken. Barbie distrugge tutta quella foresta pluviale solo per risparmiare sul packaging. Ma... da dove pensi che vengano tutti quei soldi extra per le tue cerette al petto, Ken? È finita, la lascio, questa pazza furiosa, maledetta stronza! Diciamo che me lo aspettavo un po' più virile io, questo Ken. Comunque, Barbie lascia Ken nella realtà della loro vita finta. E così il loro amore, nato nel 1961 su un set televisivo, si conclude nel 2004, dopo 43 anni di fidanzamento, a causa della titubanza di Ken a sposarsi. Non voglio sapere perché non voleva sposarsi, ma con quella voce... Beh, comunque, nel 2006 la coppia torna insieme per la felicità dei fan. E continuando nella lista dei suoi detrattori, ovviamente vi è l'Arabia Saudita, che mette fuori legge la vendita di Barbie in quanto, insomma, non certo conforme ai principi dell'Islam. Il Comitato per la Prevenzione del Vizio scrive che con i suoi abiti succinti e le sue pose peccaminose, il simbolo della decadenza del perverso Occidente, state in guardia da lei. Ma Barbie ha nemici anche di qua, in Occidente, perché una delle critiche più frequenti è che promuove un'immagine della donna anatomicamente poco credibile, con il rischio che le bambine aspirino ad avere quel tipo di fisico e arrivino all'anoressia. Insomma, viviamo in momenti di buonismo incredibile, per cui nel corso degli anni il termine Barbie assume il significato dispregiativo di ragazza di bell'aspetto ma priva di spessore e notevolmente stupida, e poi non è cicciottella come oggi bisogna essere in virtù delle nuove normative di convivenza politicamente corretta. Ma Barbie non se ne preoccupa, continua per la sua strada e diventa anche una diva dello schermo. La serie delle pellicole che la vedono come protagonista sono oltre 30. Inizia nel 2001 con il film d'animazione Barbie e lo schiaccianoci. Benvenuta a Partenia. Oh, che luogo incantevole. Qui la neve non è nemmeno fredda. Oh, gli alberi profumano di menta piperita. Non avevo mai visto un cielo così azzurro. Insomma, Barbie, la bambola più famosa del mondo e la più venduta, diventa gradualmente un personaggio così presente nella vita di tutti da diventare reale. È anche un modello da seguire. Sono tante le ragazze in ogni parte del mondo che vogliono essere come lei e che addirittura, siccome nel mondo non ci facciamo mancare niente, ragazze che si sottopongono perfino a interventi chirurgici per riuscire a somigliarle, come Valeria Lukianova, una ragazza russa che si è guadagnata il titolo di Real Barbie Doll, la bambola umana. Questa ragazza è arrivata a togliersi alcune costole per riuscire a sottigliare la vita in maniera innaturale. In realtà non ho scelto io questa immagine all'inizio, sono stati gli altri che mi hanno visto come lei. Non che mi dispiaccia, chi non si sentirebbe lusingata dall'essere paragonata ad una bambola di quella bellezza? Una bambola che è stata costruita con un'immagine ideale, l'ideale di massima bellezza di una donna. È una cosa che lusingherebbe chiunque. Beh, sì, lusingherebbe. Certo, togliersi delle costole mi pare un po' eccessivo, ma non è mica la prima che si era fatta togliere delle costole. Ma di questo ne parleremo un'altra volta. Intanto la Ruth Handler deve invece affrontare una dura battaglia, perché nel 1970 le viene diagnosticato un tumore al seno. E lì non si può cambiare la bambola, lì si parla di vita reale. Viene operata in tempo, ma i segni lasciati dall'intervento sono molto evidenti e le protesi dell'epoca non sono in grado di attenuarli. E lei è una donna combattiva, dimostra la sua tenacia anche in questo caso. Queste protesi sono fatte dagli uomini, che non devono indossarle, dice, e si mette a lavorarci su. Insieme a Peyton Massey, un artigiano, elabora una linea di seni artificiali. Sono modellati con sapone e silicone. Chiama il prodotto Nearly Me, cioè quasi me. Fonda una società dedicata alla produzione di queste protesi, la Rathton. E ancora una volta percorre i tempi, va contro i tabù dell'epoca. Diventa una sostenitrice della cura del cancro al seno. Va in televisione, promuove i controlli preventivi e propone alle donne operate una protesi che le faccia sentire ancora belle e femminili. Ironia della sorte, proprio lei, l'inventrice della prima bambola con il seno. Ci sono delle storie che spesso sono sconosciute, storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto, fare cose che hanno lasciato il segno, persone che sono riuscite, che hanno tentato, che hanno fallito, hanno avuto cadute e risalite, perché ognuno di noi nella vita può rischiare di cadere, ma può anche dare il colpo d'ala che lo porta a volare in alto come il falco o come il gabbiano. Mandateci i vostri commenti oppure segnalateci vite che ritenete interessanti. Il falco e il gabbiano @radio24.it oppure Facebook, Twitter, dai che se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.